in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa domenicale agostana, che è un po' diversa da quella tradizionale, nel senso che ci concentriamo di più sui settimanali e quindi però rispetto ad altre domeniche una cosa non cambia, che segnaliamo i due settimanali supplementi culturali per eccellenza, quello del Sole 24 Ore e nostro, e poi vedremo anche la lettura, quello in edicola col Corriere della Sera. E per quanto riguarda la domenica iniziamo naturalmente come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Le stelle. Quando avete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentite tristi, quando vi offendono, quando qualcosa non vi riesce, quando la tempesta si scatena nel vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi da soli con il cielo. Allora la vostra anima troverà quiete. Forse era una notte stellata il 14 agosto 1922, quando il teologo e scienziato Pavel Florensky scriveva queste righe ai suoi figli. Erano ancora lontani gli anni in cui sarebbe stato travolto dalla persecuzione staliniana che lo deporterà in un lager e lo farà poi assassinare nei pressi di Leningrado. Questo invito acquista perciò un valore particolare come terapia spirituale nel giorno della prova. Quella straordinaria mistica laica che è stata la giovane ebrea Etty Hillesum nel lager di Auschwitz, poco prima di essere affidata a una camera a gas, scriveva: «Credete forse che io non veda il filo spinato, i forni crematori, il dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e in questo spicchio di cielo che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza». La Bibbia è convinta che nel cielo c'è una scrittura divina, essa è però decifrabile soltanto a chi gli occhi puri, capaci non solo di guardare ma anche di vedere. E visto che in questi giorni, sicuramente da qualche parte, forse il picco è passato, però ci sono ancora le stelle cadenti, è anche un invito a vedere, a guardare il cielo per una ragione in più. La copertina però vera e propria del domenicale è dedicata a una lunga recensione di Quirino Principe a un libro di Arvo Pärt, o meglio, Conversazioni di Arvo Pärt, il grande compositore, musicista estone, con Enzo Restagno. È stato appena pubblicato dal Saggiatore, la recensione si intitola Arcano e spirituale Pärt. Poi vi segnalo dalle pagine interne un articolo di Ugo Tramballi, uno dei nostri giornalisti più esperti di questioni geopolitiche, e qui ci ricorda che il 15 agosto del 1947 ci fu la spartizione del Rai britannico tra India e Pakistan. Ne conseguirono guerre, profughi e povertà, e ancora oggi i due grandi paesi, da una parte il Pakistan e dall'altra appunto l'India, non sono del tutto rappacificati. Poi una lunga recensione di Domenico Scarpa a un libro, anche in questo caso appena uscito, che si intitola Come lavorava Gadda, per gli amanti, gli estimatori di Carlo Emilio Gadda. È un lavoro di una filologa, Paola Italia, sulle carte autografe e negli archivi dello scrittore, e tutto questo lavoro, che naturalmente singolarmente noi non potremmo fare, Paola Italia l'ha fatto per noi e poi ha raccolto tutto in un libro e ci ricostruisce un po' la storia, soprattutto intellettuale, di Gadda. La recensione più interessante però secondo me è quella di Giulio Busi a questo libro di Bettina Stangnet, che si intitola La verità del male, Eichmann prima di Gerusalemme. La recensione si intitola Il male consapevole. È uno studio che sovverte in un certo senso le tesi famose di Hannah Arendt, la famosa banalità del male. Sapete che Hannah Arendt andò a seguire il processo di Norimberga per i crimini contro l'umanità del nazismo e concluse che appunto cercavamo tutti quanti, soprattutto i tedeschi naturalmente e gli ebrei di tutto il mondo, delle spiegazioni in questo male assoluto che fu l'Olocausto, quando in realtà poi era banale, non c'era di fatto una spiegazione. Bene, secondo questa nuova interpretazione era e come consapevole quel male, e credo, e dice per esempio nel suo libro Bettina Stangnet, da parte di Eichmann non ci fu alcuna passività. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa oggi è un artista olandese, si chiama Bernhard Schmilde, e lui soprattutto fotografa, prepara delle installazioni di nuvole, se non ne trova di sufficientemente belle o interessanti nel cielo, e poi le fotografa, e quindi anche questa settimana in copertina ci sono le nuvole. Non anche questa settimana, voglio dire, anche in questo lavoro scelto dalla lettura ci sono le nuvole. E a proposito di cielo, di natura, divertente il lungo articolo di Alessandro Piperno, scrittore, ma quando lui scrive questi lunghi articoli è proprio un piacere leggerlo. E qui è provocatorio anche il titolo: Perché odio la natura? Canicola, siccità, incendi, smottamenti e inondazioni. Non c'è niente di meglio del Ferragosto per ricordarmi quanto siamo insignificanti per l'ambiente che ci circonda. Certo, un noioso civismo liberal mi induce a comportamenti sostenibili, però poi mi chiedo, cosa ha fatto il pianeta per meritarsi tante cure? Da tempo ci infligge pestilenze, carestia, calamità. È davvero tutto da leggere, anche perché naturalmente è corredato questo libro da una serie di consigli, da una piccola bibliografia di consigli appunto sul tema della natura. Si va dai libri di Conrad Lorenz, uno dei più grandi etologi mai vissuti, a quelli di Gerald Darrell, a cominciare dalla mia famiglia e altri animali, ma anche di genetisti come Richard Dawkins o Stephen Jay Gould. Insomma, al di là dell'ironia, della leggerezza con cui Alessandro Piperno affronta questo tema, tutti noi ci confrontiamo con questo grande madre cattiva o madre e matrigna che è la natura e quindi anche il nostro pianeta, la Terra. A proposito di animali, un articolo di Adriano Favole che prende spunto da un libro appena pubblicato in Francia da Seuil, L'Humanité Carnivore, e il titolo della recensione è Mangiamo gli altri animali per sentirci superiori a loro. Siamo carnivori non per necessità, è la tesi di questo libro, ma per scelta. La caccia non ha avuto un ruolo centrale per i nostri antenati, però la struttura sacrificale che trasforma in cibo altri esseri viventi è difficile da superare, conviene ingannarla. E questo si inserisce, credo, nel dibattito che indubitabilmente c'è in questo momento, più che in altri momenti storici, sull'opportunità di diventare vegetariani, per scelta per l'appunto, oltre che magari per ragioni di salute o addirittura vegani. Poi, non so, forse ricorderete, qualche settimana fa abbiamo segnalato questo libro che verrà tradotto in ottobre da Einaudi, che si intitola La mia fame, ed era illustrato da un bellissimo dipinto di Lucian Freud, che oltre a essere il nipote di Sigmund Freud, è stato anche uno dei più grandi, morto nel 1986, è stato uno dei più grandi, scusatemi, è morto nel 2011, il quadro che ho sotto gli occhi è dell'86, è stato uno dei più grandi, pittori, potremmo dire degli ultimi 2 secoli. In ogni caso, siccome l'Irish Museum of Modern Art ospita un'antologica dedicata a questo, all'illustre antenato di Lucian Freud, la lettura, in particolare Stefano Bucci, che per quell'articolo sulla fame scelse proprio un quadro di Lucian Freud, di raccontare un po' il grande, il padre della psicanalisi, ma anche utilizzando, perché no, i quadri del nipote. E tra l'altro, a illustrare questo lungo articolo ci sono ben 3 quadri di Lucian Freud, uno più bello dell'altro. Passiamo ai supplementi invece del Corriere della Sera e della Repubblica, i cosiddetti magazine femminili, che però sono convinta, e credo anche di aver scoperto, che poi sono in realtà molto molto letti anche dagli uomini. Di Repubblica dedica la copertina a Jennifer Doudna, che è una scienziata, una genetista in particolare, americana, scienze DNA, l'etica e la genetica. Ma in realtà la sua storia, che viene raccontata all'interno, è anche lo spunto per raccontare quello che Di Repubblica definisce lo speciale sul futuro, cioè come sarà la società di domani, e si risponde: un mix imprevisto tra Blade Runner, il famoso film di Ridley Scott, che tra l'altro adesso avrà un seguito, e tradizione, digitale e analogico. Il nuovo mondo dialogherà con l'antico, sarà tecnologico, ma intriso di emozioni, viaggio tra le idee e le persone che lo stanno cercando. Noi invece ci separiamo un attimo per chi sta veramente viaggiando e sentiamo gli aggiornamenti sul traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In Primo Piano. Rieccoci ancora, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulla copertina di Di Repubblica dedicata a Jennifer Doudna, e trovate poi la sua storia raccontata da Hannah Devlin dalla pagina 20 in poi. Viene definita l'alchimista geniale, ha inventato lo strumento di manipolazione genetica CRISPR, CRISPR sarebbe un acronimo, ed è stata tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il magazine Time, che sapete ogni anno stila questa classifica. Molti genitori sperano in lei, naturalmente per trovare una cura per le malattie genetiche, ma Jennifer Doudna non è uno scienziato che riposa sugli allori, si interroga invece sul limite della sua scoperta. E come molti scienziati americani, un po' per formazione, un po' per modo di ragionare e un po' per alcune delle posizioni che ha espresso Donald Trump, per esempio sul cambiamento climatico, esprime anche appunto il desiderio di poter avere un confronto più franco con Donald Trump e cercare di spiegargli l'importanza della scienza e di considerare le scoperte scientifiche, almeno alcune di esse, come assodate e non qualcosa da mettere in discussione, soprattutto se scienziati non si è. E vi segnalo poi la rubrica di Vittorio Zucconi, molto divertente, si intitola questa settimana Cleptomane occasionale, alzi la mano chi non lo è. I più rozzi si prendono un paio di mutande o un frullatore, i professionisti sgraffignano medicinali per un bottino annuo da 44 miliardi di dollari. Questa infatti è la stima del quello che gli americani chiamano il shoplifting, o che in Italia chiamiamo spesso taccheggio. E ammette Vittorio Zucconi, nessuno di noi, se siamo sinceri, è mai stato immune dalla tentazione, e non ne sono stato immune io quando, nella necessità di comprare un solo chiodino per appendere un ritratto, di fronte alla cesta dei chiodini da comprare a sacchetti a peso, me ne cacciai uno in tasca e uscii senza pagare. Negli anni quel chiodino è diventato una trave da una tonnellata e sono pronta a espiare. Il ferramento di Washington, ancora in attività, si chiama Strohschneider, che è anche un nome severamente germanico. Io sono pronto a confessare, mani in alto, non sparate. E pensate che, insomma, Vittorio Zucconi vive negli Stati Uniti da tantissimo tempo e sicuramente il taccheggio viene punito molto più severamente negli Stati Uniti. Si può essere proprio arrestati e con o senza flagranza di reato, come succede qui, insomma, bisogna stare molto attenti, anche se lo si fa appunto solo con un chiodino. A proposito di futuro, sempre su D, un articolo di Vlade Golkon sui robot, dice: le macchine capiranno i nostri sentimenti, così sostengono alcune persone, avranno forse un subconscio e per esempio, spiegano alcuni scienziati dell'MIT di Boston, potrebbero decidere che la specie umana è troppo cattiva per esistere. Io Donna, invece, il supplemento del Corriere della Sera, ha in copertina Luisa Ranieri, l'attrice, che all'interno c'è una lunga intervista. Mi godo questa stagione della vita, c'è tepore ma anche eccitazione. Ringrazio mia madre che non mi ha mai spinto a recitare, quindi racconta come è arrivata la recitazione, ma senza essere magari spinta da una mamma particolarmente ambiziosa. A volte capita che le madri abbiano un ruolo nel far scegliere alle figlie femmine delle professioni che hanno a che fare con lo spettacolo. E non sempre poi il risultato è positivo. Pensiamo anche alle tragedie, soprattutto negli Stati Uniti, dei concorsi di bellezza legati soprattutto ai concorsi di bellezza per le bambine molto piccole. Molto molto bella la sezione che trovate da pagina 47 dei racconti così definiti di mezza estate. Io Donna ha chiesto a 5 scrittrici italiane, Silvia Vallone, Camilla Baresani, Teresa Ciabatti, che tra l'altro ha vinto il premio Strega, Chiara Gamberale e Valeria Parrella, è stata candidata al premio Strega perché poi lo ha vinto con Otto Montagni e un altro autore, di raccontare, appunto, di scrivere un breve racconto, sono 2 pagine l'uno, sull'estate. E sono piccole chicche d'autrice, non d'autore. Il Corriere della Sera, tra l'altro, è divertente perché il 7 del Corriere della Sera è il venerdì di Repubblica, che sono in edicola uno al giovedì e uno al venerdì, non credo che si siano messi d'accordo, non credo proprio, ma hanno entrambi in copertina un cruciverba. Nel caso di 7 la copertina è gialla, c'è questo cruciverba: nei prossimi 6 mesi non parleremo d'altro, e secondo il Corriere della Sera questo argomento è sostanzialmente l'immigrazione. Sono meritori secondo me molti dei servizi di questo numero di 7, perché ne abbiamo parlato spesso anche alla rassegna stampa. C'è davvero molta confusione, molta anche emotività sul tema dell'immigrazione clandestina. E quindi, per esempio, l'editoriale di Beppe Severgnini, che di 7 è il direttore da quando 7 è stato rinnovato, si intitola Confusa retorica inconcludente. Ecco la discussione sui migranti. Vi leggo l'ultima parte. Un paese di 61 milioni di abitanti, l'Italia, e un continente con mezzo miliardo di persone, l'Europa, non possono andare nel panico per 95.000 nuovi arrivi. Tanti sono i migranti sbarcati in Italia tra il 1 gennaio e il 1 agosto 2017, seguendo la rotta del Mediterraneo centrale. Vi segnalo poi che da pagina 25 c'è questo lungo articolo, una sorta di inchiesta di Alessandra Testoni, che parla proprio delle rotte e soprattutto dei luoghi, dei paesi da cui vengono i flussi migratori che arrivano in Europa. L'articolo si intitola Cosa possiamo fare? E già sulla prima pagina c'è una mappa. La maggior parte dei migranti arrivano dall'Africa, si spostano magari anche dall'Africa subsahariana, ma comunque poi vanno verso la Libia, verso il Nord Africa, perché da lì partono le navi dei trafficanti di uomini. La domanda è: quanti sono gli africani che lasciano i loro paesi per raggiungere l'Europa? Perché lo fanno se il viaggio è così rischioso? Esistono soluzioni concrete e tempestive? Le risposte di un'esperta di cooperazione che vive e lavora nell'Africa subsahariana. A proposito poi appunto anche del ruolo delle ONG che secondo alcuni, la posizione di Repubblica, sono state inutilmente criminalizzate, e secondo altri semplicemente si sta cercando di trovare anche nei rapporti tra le ONG che prestano la loro meritoria opera nel Mediterraneo per salvare chi rischia di annegare e però i trafficanti di uomini che quelle persone le portano appunto spesso verso il pericolo di vita. Vi segnalo, perché mi ha molto divertito, la rubrica di Gian Antonio Stella, che si intitola Serve un medico a Bolzano che parli tedesco o che parli italiano. È una torna Gian Antonio Stella sulla questione del bilinguismo dell'Alto Adige, richiesto anche per molti lavori, ma quello che mi diverte è che, come per far capire quanto diversi siano l'italiano e il tedesco e quanto anche complicato sia per un italiano imparare il tedesco e viceversa, parte da questa parola: Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. È una parola unica in tedesco, ma in realtà sono 36 lettere e sono, in italiano dovremmo usare direi 6-7 parole, perché sta per spiegazione e Erklärung della appartenenza, Zugehörigkeit, a un gruppo linguistico. Ed è quello che è la dichiarazione che chiunque voglia lavorare in Alto Adige in un'amministrazione deve fare. Vi segnalo poi, io amo molto le capre e le pecore, soprattutto da quando ho fatto un viaggio di lavoro in Australia, dove ci hanno fatto visitare degli allevamenti di pecore, e sono rimasta veramente colpita sia dalla docilità di questi animali, sia dalle condizioni in cui vivono, perché naturalmente l'idea è meglio vivono, più bella sarà la loro lana, e quindi meglio staranno loro, gli allevatori che poi vendono la lana, che poi per la maggior parte prende la via dell'export, perché è lana pregiata che quindi viene acquistata soprattutto da aziende della moda e del lusso europee. Per questo mi colpisce, ma il reportage di Anna Maria Speroni si intitola No, non siamo tante piccole Heidi, ed è la storia di queste donne in particolare che hanno deciso di abbracciare questa vita della pastorizia. In particolare, per esempio, ce ne sono alcune nelle Marche. Qui c'è una fotografia di Patrizia Figaroli, che abita vicino a Massa Carrara e a 700 metri di quota. Poi c'è un'altra pastora con le sue pecore, con le sue capre. Insomma, hanno scelto di fare questa vita. Cioè, per esempio, non necessariamente sono nate in quei luoghi. C'è per esempio la storia di Anna Kauber, che è un ex architetto, che però adesso appunto ha scelto anche lei questa vita decisamente alternativa. Poi c'è un articolo che invece qui mi ha colpito. Sì, il testo è interessante, questo come opera una ONG in Tanzania. In particolare è la storia di un medico torinese, che trovo la pagina esatta, così vi dico anche esattamente come si chiama questa ragazza. Addirittura l'ospedale, appunto, è in Tanzania, in un piccolo paese che si chiama Tosa Maganga, e ci sono molti medici italiani che prestano la loro opera lì. Mi colpisce, le foto sono bellissime, però mi colpisce poi la foto di questo medico italiano, si chiama Federica Chiale, specializzata in pediatria a Torino, che trascorrerà 6 mesi all'ospedale di Tosa Maganga con questa organizzazione che si chiama QAM, Medici con l'Africa. Fa un po' sorridere la foto che hanno scattato perché oltre a essere truccata, e mi sembra veramente strano che a Tosa Maganga abbiano bisogno di essere truccati per visitare, ha dei bellissimi orecchini, una pettinatura che sembra uscita da un parrucchiere. Insomma, non mi spiego tanto. Questa foto stride, perché per il resto è un reportage molto interessante, che tra l'altro ha appunto anche il merito di spiegarci un pochino più, di spiegarci con una testimonianza autentica che le ONG, che oltre magari a lavorare anche in questo momento nel Mediterraneo, sono poi impegnate da tanti anni o da sempre o nel resto dell'anno in Africa con altri progetti. Il venerdì, come vi dicevo, come il 7, ha in copertina un cruciverba, però c'è una ragione diversa, perché il più famoso studioso di enigmi in Italia, cioè Stefano Bartezzaghi, introducono 6 pagine di enigmistica. Cosa c'è di più enigmistico cosa c'è di più adatto a dedicarsi all'enigmistica dell'estate? E racconta, tra l'altro, Stefano Bartezzaghi, quella che lui chiama la magnifica ossessione nata in famiglia. Però la passione per gli indovinelli, i rebus, tutto quello che va un po' sotto il cappello di enigmistica, in realtà affonda le radici nell'antichità. Come in un giallo, il filologo che scrive questo articolo insieme a Stefano Bartezzaghi, cioè Maurizio Bettini, racconta, prova per noi a illuminare questi misteri. E in questo numero del venerdì ci sono appunto un sacco di giochi. Vi segnalo però anche all'interno un approfondimento sulla questione dei pensionati italiani che decidono di lasciare l'Italia e che quindi vedono la loro pensione accreditata all'estero, se all'estero sono residenti, e dove in alcuni paesi ha naturalmente un potere di acquisto molto più alto che in Italia. Meno tasse per i pensionati all'estero, ma chi ci rimette? E questo lo trovate a pagina 54 del venerdì. Avevo segnato anche altre due cose, vediamo. Una è sul tema angoscioso, secondo me, della quantità di ettari che sono andati bruciati quest'estate in tutti gli incendi che stanno ancora divampando. E quello di cui si occupa Alex Saragosa sul venerdì è la sfida che viene dopo. Perché una foresta bruciata risorga al meglio, secondo gli esperti, si dovrebbe lasciare fare alla natura e poi puntare sulla prevenzione, anche con metodi sorprendenti. E quindi appunto qui ci spiega in questo articolo che cosa si sta cercando di fare, perché lo capiamo tutti, insomma, se veramente aspettare che una foresta si rigeneri o un bosco dopo che è stato bruciato senza alcun tipo di intervento ci vogliono decenni, così come invece magari ci sono voluti pochi giorni per distruggere fauna e flora che abitavano quella foresta o quel bosco. I settimanali, a proposito di settimanali stranieri, invece l'Economist, che è in edicola ogni venerdì, questa settimana la copertina si chiama Roadkill, cioè diciamo, le uccisioni sulla strada, e il riferimento in realtà è agli attuali motori a combustione che sono nelle nostre automobili. La sfida, naturalmente, per il futuro è quello invece di avere motori elettrici, ma questo implicherà anche una situazione difficile da affrontare, che magari potrà anche essere affrontata con successo, di tutti i produttori di auto che naturalmente per ora dedicano alla produzione di auto elettriche solo una piccola percentuale della loro capacità produttiva. Ultimissima segnalazione per questa settimana, ve la faccio dal Foglio, il Foglio del sabato, che è appunto un settimanale che ha una pagina intera veramente divertente di Giuseppe De Filippi, intitolata Fenomenologia di un cazzaro. Io scommetto che la maggior parte di voi ha indovinato che parliamo di Gianluca Vacchi, re dei social, 11 milioni di follower, che però non vuole diventare leader di nulla, vuole solo svaccare, stupire e divertirsi con i suoi soldi, e ne ha ancora tanti, tantissimi, nonostante, come abbiamo sentito, sentito nelle cronache di questa settimana, la Banca Popolare di Milano, BPM, Banco BPM, gli abbia pignorato beni per 10 milioni perché lui ha un po' un problema a restituire, problema proprio, ma non di liquidità, non gli piacciono i termini in cui la banca gli chiede la restituzione del prestito. Era l'ultima segnalazione un po' cazzara di questa settimana, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.